sempre detta, cercherò e troverai, me l'ho sempre detto, troverai. Però ci sto con me, mi basto e nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine, il suo corpo e tu sa cosa chiedere, chiedere, chiedere, fammi sognare. Lei si morde la bocca e si sente l'America, fammi volare. Lui allunga la mano e si tocca l'America. Cercherai, mi hanno sempre detto cercherai, e troverò, ora che ti accarezzo troverò, ma quanta fantasia ci vuole, quanta, per sentirsi in due, quando ognuno è da sempre nella sua solitudine. Ma non sa cosa chiedere, chiedere, chiedere, chiedere. Fammi volare. Dai le mani sui fianchi come fosse l'America. Fammi sognare. Lui che scende e che sale e si sente l'America.